vedi che non c'è la forza di dire niente tu. Voi siete buoni solamente a rompermi le balle, attraverso oggi non c'era in tutto il giorno. Stavo vedendomi la televisione, bling e telefono, bling e telefono. Vado a rispondere e non c'è nessuno. Adesso ho chiamato uno. Domani ci sarà più per te, non preoccupare. Anzi, a te già ti avrà già una certa persona, non preoccupare. E già lo sai chi, quello che trovate il numero a te.